Ricordo La per cuoceria esempio non esiste più da un bel po' di tempo, è morta completamente, resistono quattro negozianti, ma non... è vero che non c'è un intervento da parte del comune per far rivivere questa zona, ma è pur vero che secondo me il mercato della cuoceria dovrebbe cominciare a prendere un altro volto, che non è più quello del mercato storico, ma qualcos'altro. Un po' lo stanno facendo con l'apertura di diversi pub, bar e cose del genere, anche se in piazza fanno, piazza Garraffello ogni sabato sera quasi, fanno delle feste che praticamente finiscono alle 7 di mattina. Nella zona non siamo molto contenti di questa cosa. Con l'aggiunta, l'aggravante, che qualcuno ha telefonato alla polizia e ha avuto come tutta risposta: sono giovani, lasciateli divertire. Hanno aperto circa un anno fa un circolo di rifondazione comunista qua vicino e ai primi tempi l'ho frequentato sperando che potesse servire al territorio. Mi dispiace dirlo, però mi sono ritrovato innanzitutto in mezzo a dei reduci, come mente, come testa, come sono dei reduci e non riescono a vedere oltre, pur essendo gente che insomma abitiamo tutti qua. Io parlavo di topi, munnizza, degrado, e loro mi parlavano di viabilità. Cioè, non è che non mi ha fatto niente la viabilità, ne possiamo pure parlare, però prima di poterci camminare in una strada, quella strada deve essere pulita quantomeno. Questa zona è sporchissima, meno di quella. Una cosa che io mi chiedo è perché non si riesce ad aprire negozi da questa parte, mentre molto spesso dall'altra parte di Apron. Perché probabilmente questo lato sinistro è legato più al mercato, quell'altro è legato a qualcos'altro. Non ci sono molti posti come questi in città, cioè non ci sono molti posti aperti comunque da persone che hanno fatto anche un percorso politico, non ci sono piccole librerie. A parte, come dire, Modus Vivendi, che ha anche un altro tipo di... Ma in fondo Palermo non se li merita. In fondo Palermo non ci merita. È che io sono testardo e... cioè, voglio amare a tutti i costi questa città, ma la città non è che ti accoglie, assolutamente. La città ti respinge. Palermo è terribile, una cattiva madre. Tante piccole iniziative, ci sono state a Palermo piccole iniziative, ma poi muoiono dopo poco, perché Palermo è restia a queste cose. Vuole la normalità, che poi non si è capito ancora il cazzo di Salerno. È come se sapessimo tutti ciò che c'è da fare, però aspettiamo tutti che qualcuno inizi. Questa è la situazione della sinistra a Palermo. Tutti sappiamo cosa si dovrebbe fare. E poi ci blocchiamo. Ma sai perché? Perché dobbiamo andare a spezzare il capello in quattro la linea politica, la correttezza, se è corretto muoversi così o colà, le piccole inimicizie, e poi si lasciano passare cose così. Il caso del ZPL. Cioè, il caso della ZPL bisognava cavalcarlo, non lasciarlo solo a Italia dei Valori, certo. O alla lista di Grillo. Certo. Il caso della denuncia del sindaco che ci deve pensare se querelare l'AMIA o meno. Cioè, il sindaco che ci dovrebbe difendere se la pensa se è il caso di querelare l'AMIA o meno per i danni che hanno fatto. Qua a sinistra chi è che dice... andiamo a denunciare il sindaco perché non denuncia, per esempio. Trovavo scontata la questione di un'attività commerciale, della mia attività quantomeno commerciale, Dio Pizzo. Anche se all'inizio ero un po' perplesso, perché non mi era piaciuto questo lancio anonimo. Se ricordate, c'era questa cosa del un intero popolo che paga il pizzo, è un popolo senza dignità o qualcosa del genere, ed era anonimo. E dicevo che io ero disposto a metterci la firma. chiarita questa cosa, poi sono venuti fuori i nomi dei ragazzi, ho aderito. Però ho visto poi che loro hanno una gestione mediatica di Addio Pizzo, cioè appoggiamo questo perché mediaticamente ci funziona, quest'altro non ce ne frega niente, quindi non lo appoggiamo. La sera delle elezioni del direttivo è stata eletta nel direttivo una persona che in quel momento non era presente. E io l'ho trovato molto scorretto questo, ho fatto notare questa cosa, mi hanno tacciato di fare la solita polemica, di essere il solito polemico, che la cosa era già stata decisa prima, ma io parto da un detto di Gandhi che diceva: l'albero è nel seme come il fine è nei mezzi. Non il fine giustifica i mezzi. Se io voglio praticare una strada di legalità, non posso cadere ed eleggere una persona assente, è scorrettissimo. Questo non mi è piaciuto per niente. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è stata la gestione di un negozio aperto vicino al mio, che si fregia di negozio Pizzo Free. Non solo, ma per tutti è il negozio di Addio Pizzo e non il negozio di un semplice commerciante. Tant'è che all'inaugurazione non solo il titolare del negozio, ma anche qualcuno dell'associazione si è lamentato dell'assenza del prefetto. Ora, se io apro un negozio da privato, non capisco perché il prefetto debba venire all'inaugurazione del mio negozio. Se il negozio fosse stato il negozio di Addio Pizzo, capisco, cioè il prefetto secondo me si doveva far vedere. Io pure mi fregio di essere antifascista, di essere antimafioso, ma non per questo, se io faccio una cosa mi aspetto che venga il prefetto.